Sei un attore, un aspirante attore, anche più semplicemente un allievo attore permanente, soffri di arzigogoli finali, allungamenti di vocale, periodi manierati, gigioneggiamenti arcaici, barocchismi gratuiti, neoclassicismi infiltrati, rococò selvatici, innalzamenti acuti, note uccellatrici, stridoli vocali dovuti ad abusi molteplici, paranoica precisione degli arti negli spazi, niente panico, solo per te, per quelli come te sono arrivate dalla Patagonia le pillole Calmon 2014, il primo prodotto studiato appositamente per quegli attori che hanno sempre voglia di prendersi troppo sul serio, ammiccamenti, rimandi, battiti cardiaci accelerati, sudorazioni in prova, ninfomania verso i colleghi e su te stesso, tutto sparirà grazie a questo rivoluzionario prodotto. La sperimentazione partirà nei teatri di San Lorenzo a partire dal 2 marzo del 2018. Vi consigliamo di non controllare la posologia prima dell'assunzione del farmaco. In caso di persistenza di sintomi barocchi, venire il 13 gennaio al Cinema Palazzo a sentire i corti, che poi saranno anche corti non solo teatrali, ma ci sarà anche la poesia.